Shh, lascia stare. Non fa niente. Non è successo niente. Cresciamo ripetendo queste parole come un mantra, fino a crederci. E quando ci facciamo l'abitudine, ci ripetiamo ossessivamente: no, non se ne parla. Ed è vero, non se ne parla abbastanza e abbastanza bene degli abusi sessuali nei confronti dei minori. Così, questo podcast si origina da quell'espressione che abita le nostre teste per anni, fino a quando assumiamo una consapevolezza sulla nostra condizione. In Italia siamo assai reticenti a parlare di abusi sull'infanzia, perché quando non ci manca il fiato, ci mancano le parole. Questa serie vuole aprire uno spazio di confronto che decostruisce l'immaginario fatto di soli stigmi, per riabilitare i vissuti delle persone abusate in età infantile, a cominciare dal lessico e dalle forme di narrazione. Su questo sentiero incontreremo le testimonianze di chi compie una marcia simile alla nostra, da più tempo, per prendere in consegna il testimone e passarlo laddove ancora non se ne parla. Noi siamo Francesca Svanera e Gabriele Rosato e questo è un podcast di Meti. Benvenute, benvenuti e benvenuti a Non se ne parla, il podcast che alza il volume delle storie silenziate. Noi siamo Francesca Svanera e Gabriele Rosato e in questo episodio esploreremo il ruolo fondamentale della comunicazione editoriale quando dà voce a storie che altrimenti rimarrebbero nell'ombra. Parleremo di come la pubblicazione di libri, e nello specifico di libri indipendenti, può essere un atto di resistenza e cambiamento. Esatto, Gabri. Per parlare di tutto questo abbiamo con noi una donna poliedrica che non ha paura di ricostruirsi. Passa da giornalista a fondatrice nel 2019 della casa editrice Capovolte, con il sogno nel cassetto divenuto realtà di dare voce alle storie silenziate, un po' come la nostra, come le nostre. Oggi abbiamo l'onore di ospitare Ilaria Leccardi. Benvenuta fra noi, Ilaria. Grazie mille dell'invito, sono molto felice. Allora, ecco, Francesca, introducendoti, parlava del tuo progetto editoriale che tra poco racconteremo, ci addentreremo anche nella sua missione, ma abbiamo una domanda di rito, direi anche essenziale, soprattutto per te che hai scelto anche un marchio che ha una parola che può essere declinata sia come aggettivo sia come nome, Capovolte, ed è pure plurale e femminile. Allora, a proposito di vocaboli, c'è una parola o un'espressione che secondo te non pronunciamo abbastanza o abbastanza correttamente che senti di voler portare all'attenzione delle nostre orecchie? Sì, la parola che mi viene in mente è condivisione. Condivisione che, pensando alla lettura e ai libri, a volte può suonare strano, no? Perché generalmente le persone tendono ad aprire un libro e leggerlo, a volte anche senza la propria voce che si senta. Invece nel percorso di Capovolte, in questi 5 anni di lavoro da quando abbiamo iniziato questa bellissima esperienza, abbiamo imparato che mettere le pagine e le parole scritte in condivisione permette di aprire veramente dei mondi. E quindi mi sento di dire oggi questa parola: condivisione, condivisione di storie, condivisione di emozioni, condivisione di parole. Grazie, sto anche pensando a come buffo il fatto che la parola sia condivisione e spesso noi leggiamo i libri in solitudine, eppure è una condivisione, cioè quindi mi ha risuonato molto questa cosa qua. Io quando ti ho conosciuto la prima volta, dopo i vari ciao, ti ho fatto subito una domanda un po' a bruciapelo e vorrei farla oggi perché la risposta che mi hai dato mi aveva veramente colpito tantissimo ed era stata: qual è il tuo progetto editoriale? Io ero arrivata lì al banchetto, al Salone del Libro, ti ho guardato e mi ha incuriosito tantissimo, anche perché una cosa che ho apprezzato, stavi allattando, non so se ti ricordi, avevi il bambino o bambina, ora non ricordo, in braccio, e mi aveva colpito tanto il non vergognarsi di essere madre. E quindi ho detto: no, io voglio sapere qual è il progetto adesso di Ilaria, quindi ti va di condividere insieme a noi questo racconto? Sì, vi racconto la mia piccola follia. Io, come dicevate prima, sono giornalista, nasco con un percorso, quello che sognavo da bambina, di andare a raccontare storie in giro per il mondo, anche in contesti complicati. In parte ho, diciamo, soddisfatto questa mia esigenza e questo sogno di bambina, poi a un certo punto ci si scontra un po' con la vita e ho deciso di cambiare, di lasciare quello che era un lavoro anche strutturato, con un contratto, ben retribuito, per andare alla ricerca di qualcosa di meglio per la mia professionalità e perché sentivo dentro di avere la necessità appunto di cambiare qualcosa nel mio futuro e anche di offrire una vita migliore a chi mi stava attorno e di condividere una vita migliore. Quindi ho lasciato appunto il mio lavoro da giornalista e ho deciso di affrontare questa piccola follia. Capovolte nasce nel 2019, nel marzo 2019, e precisamente l'idea di dar vita a questa casa editrice scaturisce dal giorno in cui, nel 14 marzo del 2018, viene uccisa Marielly Franco. Lei era un'attivista politica brasiliana, una donna che portava dentro di sé, incarnata nel proprio corpo, tutta una serie di oppressioni e di battaglie contro le oppressioni. Lei era una donna nera, favelada, lesbica, madre. E quando lei è stata appunto uccisa a Rio de Janeiro in una maniera brutale, ho capito che quello che era già un seme dentro di me poteva diventare veramente qualcosa di più importante. E così nasce l'idea di Capovolte. Parlo con Agnese Gazzara, che poi è l'autrice di questo, il primo libro che noi abbiamo pubblicato. Lei prende parte, va in Brasile, racconta la storia di Marielle e quando mi presenta il testo decidiamo di partire. È tutto il contrario di quello di tutta la storia al contrario rispetto a quello che generalmente ci si aspetta da un progetto editoriale, perché fare editoria in Italia è molto molto difficile, ci sono dei colossi enormi, ci sono anche case editrici indipendenti che lavorano molto bene, quindi quando noi siamo partite in realtà non è stato tanto un piano editoriale o comunque aziendale, di impresa che ci ha guidate, ma è stata proprio un'esigenza di buttare fuori qualcosa. E io nel mio percorso di giornalista mi portavo dentro tante anime, una era quella più sociale e dedicata appunto, io mi sono occupata tanto di esteri, di sicurezza sul lavoro, ambiente, però mi portavo dietro anche questo pezzettino dedicato allo sport, di cui io sono stata, non dico protagonista perché sono stata una sportiva ma mai di altissimo livello, ma molto appassionata e anche come giornalista mi sono portata, ho portato dentro di me e dietro di me questo pezzetto. E quindi quando ho deciso di fondare la casa editrice l'abbiamo ideata, e io dico al plurale perché poi avevo con me una serie di amiche, compagni di viaggio che mi accompagnano ancora adesso, abbiamo immaginato queste due strade che però andassero nella stessa direzione, anche andando un po' a contaminare quelli che sono i vari ambienti. Da una parte una prospettiva femminista forte, dettata anche un po' dalla militanza che avevo nel gruppo di Non Una di Meno della mia città, Alessandria, e quindi l'idea di esplorare attraverso le storie, e poi più avanti abbiamo aperto anche una collana di teorica femminista e abbiamo poi ampliato molto il nostro catalogo in termini di offerta, e dall'altra invece la prospettiva più dedicata allo sport, che è una materia spesso dimenticata in ambito femminista, in cui invece secondo me è molto interessante perché è un ambiente molto, molto trasversale, che coinvolge giovani, che coinvolge dinamiche che tante volte sono un po' lo specchio della società. E quindi mi interessava, da una parte andare ad applicare in maniera corretta quello che è ad esempio il linguaggio sportivo, che spesso sulle donne agisce in maniera veramente ancora, scorretta, diciamo così, basta andare a leggere ogni tanto i giornali, o comunque le narrazioni sportive mainstream, e quindi volevo anche segnare un piccolo punto in questa direzione e poi andare appunto un po' a contaminare gli ambienti, portare un po' di femminismo in ambito sportivo e un po' di sport in ambito femminista, e andando anche qui un po' a scardinare quelli che sono magari più i confini classici. E poi il percorso è stato talmente bello, nonostante l'arrivo del Covid, che ci ha permesso lo stesso di andare avanti con le difficoltà classiche, ma comunque ce l'abbiamo fatta. E poi diciamo che dal 2001 abbiamo iniziato a macinare titoli anche molto importanti e siamo ancora qui. Le contaminazioni della tua storia personale che sembrano confluire in questo progetto editoriale mi fanno anche pensare alle incursioni letterarie che circolano nelle vostre collane e pensavo che l'editoria, e direi soprattutto quella indipendente di cui sei espressione, ha un ruolo cruciale nel portare alla luce discriminazioni e ingiustizie spesso trascurate dai grandi media. Come dicevi, ci sono anche dei colossi che probabilmente seguono anche logiche e regole in perimetri differenti. Dal tuo punto di vista, come pensi che l'editoria di cui sei espressione possa rispondere all'urgenza di mettere in luce le discriminazioni, per posto che sono anche di diversa natura e magari non di tutte ci si può occupare in ogni caso. Hai anche parlato dello sport che è sotto tanti riflettori per via del suo intrattenimento, ma ha tutto un risvolto legato ai compensi, legato allo sforzo, all'etichetta che occorre manifestare anche rispetto al genere. Insomma, quale difficoltà affronti da questo punto di vista, anche trovandoti sul campo del panorama italiano, quindi pure mettendo in campo le difficoltà economiche e culturali, perché no? Allora, sotto questo punto di vista bisogna secondo me tenere presente diversi piani, perché da una parte la volontà di Capovolte è sicuramente quella, e parlo per Capovolte ma parlo anche di altri marchi indipendenti che stanno facendo un bellissimo percorso parallelamente a noi in questi anni e ne abbiamo visti nascere parecchi e con cui facciamo tra l'altro alleanze molto interessanti, è quella di valorizzare delle voci e degli sguardi, soprattutto quindi voci ma anche prospettive proprio, che spesso vengono dimenticate. Quindi io in questo caso parlo principalmente del sud globale, ad esempio, perché noi abbiamo spesso una prospettiva, anche prospettiva femminista, molto forte, molto radicata, ma che spesso si concentra più dal punto di vista eurocentrico, comunque con voci che sono spesso bianche, e nel nostro paese questo vediamo che è un problema anche nei contesti culturali soprattutto. E quindi da una parte garantire o comunque provare ad aprire finestre nuove, dall'altra approfondire tematiche più trasversalmente, diciamo quelle che sono della società patriarcale, quindi ad esempio non lo so, il nesso che può, e magari a volte sono un po' dimenticate, il nesso che può esserci, ad esempio faccio un esempio preso anche un po' dai nostri libri, e alcuni nostri libri trattano proprio questo tema, il nesso tra la violenza agita sui corpi delle donne e la violenza sui territori, su cui ad esempio si incide molto tutto quello che è capitalismo, estrattivismo, e di cui spesso ci dimentichiamo, spesso parliamo di violenza di genere ma non la connettiamo a tutto quello che invece è violenza strutturale a livello appunto anche sociale, o anche in ottica decoloniale, che è un aspetto che ci interessa moltissimo, perché ci scandalizziamo giustamente molto per le violenze subite dalle donne nella nostra società, ma spesso ci dimentichiamo che questo spesso è connesso a un'altra forma di potere agita storicamente, a cui ci stiamo cercando in qualche modo di rispondere anche nel nostro piccolo, aprendo appunto nuove finestre in questo senso. Come dicevi tu, Gabriele, anche in ottica sportiva, perché no? Lo sport è un ambiente dove ci sono dinamiche di potere e squilibri di potere molto importanti, quindi anche le discriminazioni da questo punto di vista è molto interessante andarle a indagare. Però come Capovolte, come casa editrice, un altro aspetto che mi piace sottolineare è quello che la discriminazione purtroppo a livello sociale si vive ancora molto, diciamo, anche nella possibilità dell'accesso al libro, e questo è un elemento a cui io tengo moltissimo. I libri che appunto in Italia ne vengono pubblicati tantissimi ogni giorno, a volte molti di più di quelli che si leggono, però sono diventati quasi un bene di lusso. Non tutte le persone possono permettersi di acquistare un libro, e quindi il lavoro di Capovolte cerca di andare anche in quella direzione lì. Parlavo prima di condivisione, la condivisione secondo me deve anche andare nell'ottica di provare a scardinare quello che è la discriminazione economica, e quindi è vero che questo magari va un po' contro il nostro interesse, però abbiamo cercato nel nostro catalogo anche di produrre e di proporre dei libri che possono essere accessibili in termini economici, quindi con dei costi contenuti, nel nostro piccolo provare a democraticizzare un po' l'accesso alla conoscenza, e dall'altra parte accessibili anche in termini di linguaggio, quindi offrire anche diciamo così elementi teorici o comunque discorsi teorici importanti, ma con un linguaggio e una modalità accessibile anche a chi magari non ha una formazione in quell'ottica, perché sennò si tengono veramente troppo distanti i piani e si vanno a creare delle discriminazioni automaticamente tra chi può leggere determinate cose e chi ha l'accesso a un certo tipo di linguaggio, e chi invece magari non avendo una propria formazione quella cosa non ci può arrivare in qualche modo, visto che già il libro e la lettura sono complicate, no? Come non sono purtroppo ancora per tutte e tutti. E quindi noi stiamo cercando di fare questo lavoro, e ad esempio uno dei libri che mi piace citare in questa prospettiva è il piccolo manuale antirazzista e femminista di Jamila Ribeiro, che è un pamphlet piccolino, sono 10 lezioni sull'antirazzismo in ottica femminista, che però sono veramente capaci di arrivare a tutte e a tutti, basta appunto mettersi un attimo lì e mettere due cose insieme. E penso che anche questo sia importante in ottica di antidiscriminazione. Ne approfitto e parto proprio con il libro che ho appena nominato. Quando l'ho letto mi ha colpito tantissimo perché tutta la lotta che si parla per le persone razzializzate è comunque la lotta che in ogni discriminazione si vive. Cioè, le varie spiegazioni, le varie tappe, come dicevi tu, i vari capitoli spiegavano un qualcosa che anche noi, parlando della tematica che è la pedofilia, ci stiamo trovando come difficoltà, questo silenzio, questi muri da battere, questa difficoltà nell'essere ascoltati in quello che può essere il nostro dolore. E anche in questo libro, che è il piccolo manuale antirazzista e femminista, io ho ritrovato la mia stessa lotta. E quindi mi sorge subito questa domanda. Che tipo di lotta si fa all'interno di un'editoria indipendente? E che tipo di linguaggio, oltre a quello che già citavi, però penso ai linguaggi inclusivi, che però per molti possono diventare difficili perché non sono ancora del tutto consolidati nella società, può aiutare, non aiutare? Che cosa esattamente si sta smuovendo e proprio di tutte quelle collaborazioni che parlavi tra voi editori indipendenti, che tipo di rete si sta formando? E una domanda che mi giunge anche spontanea per chi magari non mastica il librese, che cos'è esattamente una, partirei forse da qui, un'editoria indipendente? Per editoria indipendente, cercando di essere concise, insomma, sono tutte quelle realtà, quei marchi editoriali che si muovono sulle proprie gambe senza appartenere a dei grandi gruppi editoriali che comunque nel nostro paese la fanno da padrone. E sono gruppi editoriali che hanno poi in mano non soltanto marchi editoriali, ma hanno anche in mano gran parte della filiera della distribuzione editoriale, delle librerie di catena, e quindi senza fare nomi, però ci sono veramente dei colossi che sono, sicuramente fanno un lavoro culturale molto importante, ma al tempo stesso un lavoro industriale, se vogliamo, no? In qualche modo. Tant'è che c'è anche quando si fa il lancio, la promozione di un libro, si hanno delle sovrapproduzioni altissime, con poi tantissime copie di libri che vanno al macero, tantissime copie di libri che tornano indietro. Si investe per un periodo molto limitato di tempo sulla promozione. E poi i libri in qualche modo si spengono, se vogliamo. Una volta mi è arrivato un complimento bellissimo proprio da Jamila Ribeiro, l'ultima volta che era venuta in Italia a settembre scorso, e lei mi ha detto: io sono comunque ormai una figura anche a livello culturale molto importante. Era appena andata il mese prima a parlare alle Nazioni Unite, all'Assemblea Generale dell'ONU, insomma, è una figura veramente importante a livello internazionale. Ma lei davanti a un aperitivo mi ha detto: io sono molto contenta di aver pubblicato i miei libri con voi, perché ho dei colleghi brasiliani, anche a loro volta molto di spicco, che hanno pubblicato con grandi marchi in Europa e poi non sono stati minimamente seguiti. La nostra resistenza va in quell'ottica, cioè pubblicare un libro con un editore indipendente, un'editrice indipendente, può voler significare ovviamente una minore potenza di fuoco, io la chiamo così, nel senso che comunque sicuramente non abbiamo i mezzi che hanno grandi editori, però abbiamo altre qualità e altre opportunità, che sono innanzitutto quella della grande resistenza, questo sicuramente, della volontà di seguire autrici e autori quasi in maniera personale, molto ravvicinata, c'è un rapporto umano che ci lega, almeno nel mio caso parlo molto da vicino con tutte le persone che hanno pubblicato, tradotto, curato, illustrato i nostri libri, e questa cosa mi rende molto orgogliosa. E al tempo stesso si crea, diciamo così, un percorso che diventa quasi artigianale. Io conosco ogni virgola e ogni parola dei libri che ho pubblicato con Capovolte, e al tempo stesso Capovolte è riuscita a creare nel suo percorso un po' folle, un po' appunto ben poco orchestrato inizialmente, veramente la possibilità di connessione tra le persone che hanno lavorato e stanno lavorando al loro interno. Persone che hanno collaborato con me attraverso vari libri adesso stanno facendo progetti per conto loro, cioè uno con l'altro. Questa cosa è una cosa molto interessante, molto bella, nata appunto dal nostro percorso. E poi, come dicevo prima, ci sono tante case editrici indipendenti, piccoline, veramente quasi, non dico familiari, ma comunque con piccoli collettivi o piccoli gruppi di lavoro che si stanno mettendo in rete. La nostra ultima esperienza è quella che abbiamo chiamato Resistenze, a proposito, editrici in rete, ed è un gruppo di 9 case editrici guidate per lo più da donne o comunque da persone queer, e ad esempio voglio citare in questo caso la casa editrice Asterisco di nostri alleati, ma siamo 9, dovrei citarle tutte, non lo faccio per brevità, che mette in piedi un percorso che coinvolgerà le librerie indipendenti attraverso modalità più varie, dai book club alle letture, agli eventi sui territori, perché abbiamo cercato di idearci un percorso che potesse in qualche modo rispondere e creare opportunità di dialogo attraverso singoli testi di ogni casa editrice, ma attraverso dei filoni che possano comunque tenerci insieme. È complicato perché io dico sempre che bisogna creare lo spazio di lettura attorno ai libri. Perché veramente l'offerta che c'è in Italia tutti i giorni è tantissima e non si può immaginare che un libro esca e automaticamente si promuova, automaticamente venda e vada e venga conosciuto. Le modalità sono tante, l'offerta è tantissima, dobbiamo essere noi brave come editrici a creare questo spazio attorno al libro, a creare nuove opportunità di lettura e di divulgazione e al tempo stesso la cosa che mi rende molto felice è che ci sono dei libri che noi abbiamo pubblicato il primo anno di vita che presentiamo ancora. E questo penso che non sia molto semplice da trovare. E non sono romanzi, sono saggi e quindi vuol dire che comunque i nostri libri hanno vita lunga e è quello che può garantire l'editoria indipendente, penso che sia proprio questo. I vostri libri hanno vita lunga, dici, e mi verrebbe da pensare anche lunga vita ai libri, tanto più che questo augurio non è mai obsoleto. Parlavi di queste sfide e nel modo con cui ne parli, a proposito anche della indipendenza nel partecipare di questo settore, mi hai fatto venire in mente che è un po' quello che fanno anche le associazioni culturali che si confrontano in modo più possibile democratico, ma anche in modo alleato, come tu hai parlato dell'altra casa editrice. Cioè, non sono così sicuro che le case editrici non indipendenti possano dire lo stesso nella collaborazione fra pari, perché si fa anche più competizione. Non mi sembra dal tuo parlare che c'è competizione fra te e le altre case editrici per le quali supportate gli stessi temi. Tra questi temi, spesso, uno di quelli parlati o parlati in un modo con tanti punti interrogativi, quello dell'infanzia. Noi, ovviamente, per effetto della nostra storia personale, ci interroghiamo molto sulle infanzie, se così si può dire, perché in qualche modo non è un'unica cosa. Nella tua esperienza anche di lettrice, oltre che di autrice e di editrice, probabilmente ti sei già confrontata col fatto che scrivere per l'infanzia, scrivere sull'infanzia sono mestieri complicati, delicati, specialmente quando si tratta di tabù che costituiscono anche per gli adulti, oggetti proibiti, come la sessualità. È importante trovare un equilibrio, questo ce ne accorgiamo spesso, in questa stagione lo stiamo sottolineando, tra una comunicazione adatta ai bambini e una scrittura anche non infantilizzata. Per la tua esperienza, ti va di condividere alcune buone pratiche che hai adottato, che hai conosciuto attraverso altre esperienze, per una narrazione e una divulgazione adatta al trattamento di tabù come la sessualità? E lo direi anche tenendo presente che questi argomenti sono tabuizzati per gli adulti e tra gli adulti, e solo per effetto di questo coinvolge anche bambine e bambini. Quindi, per capovolte, i tuoi autori, le tue autrici, come bilanciano la necessità di informare fino in fondo senza confondere? Questa è una domanda veramente interessante. Noi, allora, nel nostro catalogo non abbiamo al momento una collana dedicata all'infanzia e quindi a pubblicazioni per l'infanzia, però io mi sento di fare un doppio ragionamento. Allora, da una parte, da lettrice e quindi da mamma, perché io sono mamma di tre bimbi e da diciamo persona che lavora in questo ambito editoriale. Allora, sicuramente l'elemento principale penso quello che penso sia quello di utilizzare le parole giuste, senza la paura di andare a toccare, come dicevi tu giustamente, Gabriele, il problema non sono i bambini che hanno tabù su determinati temi, ma sono gli adulti che hanno probabilmente paura di parlarne e quindi nel momento in cui poi si trovano a doverne parlare, parlare, pubblicare, scriverne, vanno magari in difficoltà. Io, se posso consigliare anche chi ci ascolta, c'è una casa editrice che sta facendo un lavoro fantastico ormai da diversi anni su queste tematiche e con questa prospettiva, che si chiama 7-9. È una casa editrice indipendente a sua volta che fa parte anche del nostro percorso Resistenze, quindi sono molto contenta di questo. Io la seguivo ancora prima di fondare Capovolte, quindi sono felice di questa possibilità, e loro fanno veramente un lavoro straordinario sia in termini di pubblicazioni dedicate agli adulti, diciamo, che hanno a che fare ogni giorno con i bambini, sia ai bambini stessi, quindi a libri per l'infanzia di diverse fasce di età, in cui esplorano tematiche che a volte veramente sono delicate per noi adulti, diciamo, che però per i bambini magari, le bambine, sono discorsi che possono essere molto spontanei, e basta appunto affrontarlo con le parole giuste. Nel nostro caso, diciamo che probabilmente la collana che maggiormente dove maggiormente abbiamo avuto a che fare con questo tipo di tematiche, quindi anche con l'attenzione a questo aspetto, è la collana sportiva, un po' come dicevo all'inizio, perché l'ambito sportivo è quello che poi è veramente trasversale e va ad abbracciare molto anche ovviamente fasce di popolazione giovane. E noi abbiamo ad esempio pubblicato un libro sul tema del corpo, dove in realtà è un libro fotografico di nudi sportivi, ed è una cosa molto particolare perché sono tutte fotografie di sportive di alto livello, nude, completamente nude, che raccontano il proprio rapporto col corpo. Ed è un libro molto interessante, ma al tempo stesso, che noto spesso, rischia di essere un po' delicato, perché non da tutti è capito, no? Soprattutto dagli adulti, devo dire la verità, perché le ragazze o i ragazzi, insomma, soprattutto ragazzine, perché è un libro che tratta di ginnastica, quindi tendono ad avvicinarsi maggiormente le ragazze, ad esempio, agli stand dove noi andiamo in fiera, lo sfogliano e rimangono affascinate dalla bellezza delle foto, e poi leggono quello che le ragazze raccontano il proprio rapporto con il corpo, raccontano le violenze subite in ambito sportivo, non si parla di tanto di violenza sessuale, ma si parla magari di abusi fisici o psicologici, il rapporto con a volte problematiche anche di alimentazione, disturbi alimentari. E invece noto che gli adulti, quando sfogliano il libro, hanno sempre un attimo quel momento di difficoltà, no? Perché non capiscono dove si vuole andare con questo libro, quando in realtà il messaggio è molto semplice. Il libro si chiama Io Sono, e quindi anche dal titolo è chiaro come sia poi un'autorappresentazione della ragazza. Sono tutte ragazze ovviamente maggiorenni in questo caso, che però raccontano un percorso di vita partito, e un percorso anche professionale se vogliamo, partito veramente nell'infanzia da ragazzine. E all'interno del libro è contenuto un bel intervento di una psicologa che si chiama Francesca Masserdotti, che racconta e spiega dal suo punto di vista. Lei è una delle figure principali di Assist, che è l'Associazione Nazionale Atlete, che si occupa molto anche di contrasto agli abusi in ambito sportivo e di diritti delle atlete. E lei parla tante tematiche, una di queste è il tema del consenso. E io sono molto contenta che in questo libro, che comunque io spero venga letto e portato anche dalle ragazze che hanno partecipato al progetto direttamente, perché possa essere divulgato sempre di più, il tema del consenso è fondamentale. Lei ne parla con parole molto chiare e dice: bisogna spiegare ai bambini, alle bambine che attraversano gli ambiti sportivi, che cosa vuol dire, diciamo così, qual è il limite, dove sta il limite. E lo dice con parole molto chiare. Un contatto fisico, è ovvio, tu stai lavorando col tuo corpo, è normale che un allenatore, un fisioterapista, una persona che lavora con te per arrivare a un risultato sportivo, di qualsiasi livello stiamo parlando, tocchi il tuo corpo e abbia a che fare col tuo corpo. Ma parliamo semplicemente di qual è il limite, parliamo di cosa vuol dire consenso, anche perché comunque sappiamo che negli ultimi anni l'ambito in generale, anche a livello internazionale, l'ambito sportivo è stato purtroppo attraversato da scandali enormi da questo punto di vista, però lo sport è anche un ambiente dove c'è molta omertà e quindi di queste cose non si parla anche in questo settore. E quindi è importante dal mio punto di vista, che io parlo per la mia esperienza, è un po' questa, si possa lavorare e dire le cose, cioè chiamare le cose col proprio nome. Sia quando si parla di una prospettiva più positiva, ovviamente, quindi affettività, sessualità, e pensiamo soltanto alla paura che c'è di portare questi temi nelle scuole, dovremmo interrogarci, no? E dall'altra parte invece capire dove sta il limite e dove sta il limite negativo, non avere paura poi di raccontare. Perché invece purtroppo, come dicevo, e qua chiudo questo mio pensiero, l'ambito sportivo è un ambito dove spesso si ha veramente molta paura di tirare fuori qualcosa se succede. Anche che può essere veramente dall'insulto a ovviamente la cosa più grave a livello fisico. E niente, speriamo anche in questo pezzettino di aver fatto il nostro. Sì, io penso che parlare, dico in Italia, perché nel resto del mondo dipende un po' dalle nazioni che trovi, parlare di violenze e di abusi sia complicato in tutti gli ambiti, perché quasi sempre gli abusi e i maltrattamenti vengono fatti da persone che detengono un potere che è più grande del nostro, come nel caso delle sportive, degli sportivi, come stavi, sportivo, come stavi dicendo te adesso. Comunque l'allenatore dire che un allenatore, un'allenatrice, un allenatore ci ha fatto del male, puoi rischiare la carriera se siamo ad altissimi livelli, quindi metti in repertorio tutto il tuo lavoro. Spesso gli atleti e gli atlete sono persone giovani, molto giovani, che quindi hanno puntato tutto il loro studio, tutte le loro cose su quello che può essere la formazione sportiva. Quindi riuscire a denunciarlo e a dirlo dopo che se l'è compreso, perché come dicevi te, si lavora col corpo, quindi l'essere toccati, toccate, fa parte di quello che è questo mestiere. E quindi è veramente complicato e difficile, come anche negli altri ambiti. Ripeto questa cosa perché credo che proprio sia una questione che la persona che ti sta facendo male, lo ripeto, è una persona che detiene molto più potere della persona abusata. Mi chiedevo anche, no? Sto pensando un po' di libri che ho letto della vostra collana, che mi sono piaciuti tutti, uno in particolare che è stato I fiori non serve il pettine, che è un po' romanzato rispetto agli altri che sono più saggi, però mi è piaciuto tantissimo perché ho sempre sottovalutato quello che magari parti del nostro corpo che diamo per scontate, come i capelli stessi, possono invece cambiare e inficiare sulla vita di una persona. Quindi proprio ho sentito la liberazione, no? Nelle parole di questa autrice, ho sentito proprio la liberazione e la trasformazione del concepire il proprio corpo in un altro modo. E quindi mi sono fatta un po' questa domanda qua. Questi libri che sono anche indipendenti, in che modo possono incidere sul presente? Non so, anche un libro che è stato scritto nei primi anni che voi, nel 2019, adesso, può ancora incidere secondo il tuo punto di vista o ogni libro ha il suo tempo? Allora, io sono fortemente convinta che i libri che pubblichiamo, almeno quelli che abbiamo scelto di pubblicare, tutti nel loro piccolo percorso abbiano avuto un ruolo o possano potenzialmente avere un ruolo, cioè quello che è andato meglio, quello che magari deve ancora fare della strada. Però questa è proprio l'idea con cui nasce Capovolte, cioè io non potrei pensare di pubblicare dei libri se non immaginando che possono avere un effetto sul nostro presente, sia sulle persone che singolarmente li leggono, sia, come dicevo prima, su nuove opportunità anche di condivisione, quindi di messa proprio in cerchio. A me piace questa idea di mettersi in gruppo a leggere a voce alta dei libri. Noi abbiamo anche ideato, grazie a due ricercatrici razzializzate, che sono Marie Moise, Magda Aguero e Marian Tesfao, sono ricercatrici attiviste, abbiamo ideato un laboratorio che si chiama Memorie da Sottopelle, laboratorio di coreografie decoloniali. Attraverso la lettura di alcuni testi delle nostre autrici, appunto razzializzate, nere, la parola poetica e non anche teorica emerge come possibilità di far risuonare determinate tematiche, determinate forme anche di liberazione e scatena poi ulteriori produzioni, perché questo workshop stimola le persone a produrre poesia, a produrre testi, a produrre parole che poi vengono condivise. Il libro che citavi tu è un libro straordinario che nasce scritto a quattro mani, appunto, da Ilaria Sant'Ambrogio e Marina Gellona, la quale ha raccolto la storia di Ilaria. Insieme hanno costruito questa narrazione molto delicata che si sviluppa attraverso la storia di una donna, appunto, che perde i capelli fin dall'infanzia, con l'elemento chiave del fiore, che è poi un po' simbolico della rinascita. Quello è un libro, ad esempio, che è stato interessante pubblicare perché nelle narrazioni classiche le persone senza capelli, le persone pelate, calve, non hanno rappresentazione, ne hanno pochissima. E quindi anche per Ilaria questo è stato importante perché, al di là della sua storia personale che andava raccontata, le ha permesso di entrare veramente in connessione anche con situazioni diverse. Vado a pensare ad esempio a quelle più medicalizzate, di persone che per cure perdono i capelli, oppure persone che, appunto, non, anche bambini o persone più piccole che non si sono mai viste rappresentate appunto, e quindi, come dicevo prima, quello che non si racconta, quello che non si fa vedere non esiste. E invece questo è sicuramente un modo anche per raccontare un pezzo di realtà. E poi l'altra cosa che mi piace dire è che vorrei dire, che mi farebbe piacere sottolineare, è che l'ultima collana che noi abbiamo aperto è una collana di salute di genere e salute mentale. Abbiamo una collana sulla salute, diciamo così, che ha questi due focus: salute mentale e salute di genere. Però con un'unica prospettiva, che è quella di porre la persona al centro. E quindi abbiamo fatto una presentazione molto bella di uno di questi libri della collana che si chiama Impaziente, un'esplorazione femminista del cancro al seno. Le persone che hanno lavorato ai vari testi, in questo caso specifico si tratta ovviamente di cancro, sono persone che stanno affrontando o hanno affrontato nella vita una forma di cura o un percorso comunque patologizzato a livello sociale, ma che attraverso questi testi che abbiamo scelto di pubblicare smettono di essere oggetto di cura e diventano soggetto, mettono il loro protagonismo, il loro agire, la loro pratica come un pezzettino di quel percorso di cura che può essere poi messo a disposizione di altre persone in qualche modo, no? E questo l'abbiamo fatto sia con un libro più appunto sul cancro come questo, sia sui libri che abbiamo pubblicato a tema salute mentale, quindi sulle voci. Abbiamo pubblicato due libri in questa direzione, in cui sono anche gli uditori di voci stessi che parlano e raccontano la propria esperienza. E questo è solo un piccolo esempio, perché poi abbiamo parlato di antirazzismo, discriminazioni, però c'è anche questo pezzo qua dimenticato, no, a livello sociale. E quindi niente, Capovolte ha un po' questa prospettiva, l'idea che effettivamente dai libri, dalle parole scritte si possa arrivare a incidere davvero sul presente. Non potrebbe esistere il nostro lavoro, almeno dal mio punto di vista, se non avessimo questo obiettivo. E a fronte di questa lunga onda che i libri possono segnare nel loro corso, il nostro tempo purtroppo si va esaurendo, ma esattamente come fanno i libri che si depositano queste letture poi nel fondo della nostra coscienza, qualche volta ci richiamano dei ricordi attraverso cose che abbiamo letto qua o là, ci accompagniamo verso l'uscita. Di nuovo con le parole, esattamente come ci siamo entrati, un po' in punta di piedi, in punta di lettere. Noi lo facciamo anche durante i nostri incontri di automutuo aiuto e quindi ci raccontiamo con una parola che cosa ci portiamo di questo viaggio, di questa conversazione. Lo faremo Francesca ed io anche. Tu, Ilaria, che ti porti con te di questa conversazione? Mi porto la parola futuro, che non abbiamo affrontato, però me la porto dentro perché questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme mi ha permesso di immaginarmi un futuro percorso per Capovolte. Quindi abbiamo parlato dei 5 anni passati e di quello che stiamo raccontando e cercando di portare ora a lettrici, lettori, grazie al nostro lavoro, ma questa chiacchierata mi ha permesso di pensare al futuro. Wow, e tu Franci? Io pensavo ad Ali perché ho immaginato questi libri che prendono la forma quasi di ali che volano e vanno nelle case delle persone, bussano e dicono: la sai questa storia? E allora, in questo principio di futuro e in questo svolazzare di pagine, io dico pelle. In realtà, per me, la carta, insomma, rappresenta un po' la sensazione di provare le cose sulla pelle. Le nostre storie spesso sono incise sulla nostra pelle, qualche volta sottocute, ed è per questo che occorre guardare fra le righe, leggere fra un contenuto e l'altro. E i libri di un'editoria indipendente fanno anche questo: scrivere e dove non c'è abbastanza carta, chiedere, raccogliere, chiamare alla raccolta anche altri alleati per fare lo stesso. Noi, Ilaria, ti ringraziamo molto per aver condiviso con noi la tua esperienza e il tuo futuro attraverso le pagine delle storie che navigano nella tua casa editrice. E ringrazio moltissimo te, Franci, e noi vi invitiamo ad ascoltare il nostro podcast anche attraverso gli altri episodi, continuare a farlo attraverso la rete social e per questo grazie e alla prossima puntata. Grazie a voi. Grazie a voi. Non se ne parla è un podcast dell'Associazione Meti ed è prodotto da Officine B12 col supporto del Centro Medico Stendhal di Milano. Tutti gli episodi sono disponibili su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. E Seguici sulla tua app preferita e riceverai la notifica dell'uscita di ogni nuova puntata. E se il podcast è piaciuto, faccelo sapere e spargi la voce. Fa che se ne parli. A presto!